Grazie. Buongiorno a tutti quanti e benvenuti a questa lezione del corso Kollel Torah. Oggi stiamo aprendo un corso sulla lettura e la semplice comprensione della Tefilah. Per semplice comprensione cosa si intende? Allora, noi tutti siamo abituati che la Tefilah è un rituale, qualcosa che uno apre il libro e legge. Chiaramente la semplice lettura senza la comprensione di quello che si legge è una cosa problematica, perché la Tefilah che cosa è? La Tefilah è anche una conversazione, è anche una richiesta, è anche una supplica, è anche un tipo di espressione di un legame. Tutto questo tra l'uomo e HaKadosh Baruch Hu. Nella Tefilah ci sono principalmente due soggetti, la persona che fa la Tefilah e, tra virgolette, l'interlocutore, quello che ha davanti, che sarebbe HaKadosh Baruch Hu stesso. E quindi, quando si recitano delle parole senza conoscerne il significato, è chiaro che sembrerebbe che venga a meno tutto questo significato. Ora, prima di tutto, per consolare, tra virgolette, un po', non è vero che viene a meno tutto il significato della Tefilah, perché quando noi parliamo di Kavanah, quindi di intenzione, di presenza mentale nella Tefilah, ci sono diversi aspetti per cosa si intende per Kavanah. Il senso più semplice è quello a cui accennavo prima, e cioè la semplice comprensione di quello che si sta dicendo. Quindi Kavanah, abbi in mente il senso di quello che stai pronunciando con la tua bocca. Perché si deve dire questo? È normale che se io dico qualcosa penso a quello che sto dicendo? Beh, effettivamente non è così normale se è una cosa che ripeto tutti i giorni. Perché se mi abituo a pronunciare delle parole, potrei anche pronunciarle mentre penso ad altre cose e potrei facilmente distrarmi anche mentre pronuncio le parole che sono abituato a pronunciare. E per questo la prima cosa che va sottolineata come Kavanah è: abbi sì in mente il significato, il senso di quello che stai pronunciando. Questo, di nuovo, è possibile se conosci il significato. Un altro aspetto della Kavanah è un concetto più generale di intenzione. Un'intenzione, se vogliamo, generica. Io mi pongo in tefillah, in preghiera, davanti ad HaKadosh Baruch Hu, con l'intenzione di volere stare vicino ad HaKadosh Baruch Hu, con l'intenzione di in qualche maniera voler interagire, conversare, eccetera. È una intenzione generale di attaccamento che non entra nello specifico dei termini o delle frasi o dei brani che vengono recitate, ma è una presenza. La persona non è distratta, è presente nella sua tefilah, nel senso che mentre recita queste parole ha un sentimento di vicinanza e vuole, con questo gesto che sta facendo, vuole star vicino ad HaKadosh Baruch Hu in un certo senso. Anche questa è Kavanah, anche questa è intenzione, è presenza nella tefilah. Ma ovviamente se ci fosse un'unione, un insieme di questi due aspetti di Kavanah, che sono quelli più basilari, ovviamente sarebbe ancora meglio. Poi ci sono aspetti più profondi di Kavanah, ma non è nostra Kavanah, nostra intenzione entrare in quegli aspetti in questo momento, in questo corso. Perché credo che è importante partire dalla base. Un altro aspetto importante nel conoscere il senso di quello che si legge è di evitare innanzitutto errori nella lettura, perché se io non conosco il senso di quello che sto dicendo e faccio un errore non me ne accorgo, chiaramente. Quindi evitare errori nella lettura significa esprimere quello che effettivamente è scritto nel libro, nella Tefilah, quello che i maestri ci hanno indicato di dire nella Tefilah. Se dovessi esprimere un'altra cosa, allora potrei o dire una cosa insensata, quindi che non ha nessun senso, non è successo niente, però ho detto una cosa che non ha senso, oppure in alcuni casi potrei anche dire qualcosa che è addirittura non voluta, cioè non solo non è intesa, ma va contro l'intenzione del versetto o della parola che sto recitando. Quindi anche in questo senso c'è una grande importanza nel capire il senso di quello che si sta leggendo. Quando si tratta poi della lettura dello Shema, tutto questo è ancora più sottolineato, perché nella lettura dello Shema è importante lo scandire le parole bene, il non unire due parole che potrebbero fondersi e diventare una. In alcune edizioni della Tefilah la cosa è indicata, la divisione tra una parola che conclude con una lettera e un'altra che inizia con la stessa lettera, come Alle Vaveha, che potrebbe diventare una parola e assumere un altro senso, eccetera. E questo lo vedremo più avanti quando arriviamo allo Shema. Vorrei partire proprio dall'inizio delle Zemirot, facendo presente anche un altro aspetto. Uno dei problemi che molti hanno è quello appunto del non essere abituati alla lettura e quindi appunto, come dicevo, i vari errori o non chiarezze nella lettura. Uno dei rimedi, credo, se uno cerca un consiglio, offro un consiglio gratuito, è non solamente di ripetere la tefilà tutti i giorni, che uno potrebbe anche ripetere gli errori, di fare pratica anche su altre letture, quindi abituarsi a leggere l'ebraico al di fuori del contesto di tefilà, non solamente all'interno di quello che è il contesto di tefilà, quello che è dovuto, ma anche più in generale cercare, se uno ha un momento di pausa, un momento libero, di prendere un qualsiasi libro scritto in ebraico con i puntini, almeno in questa fase, e fare delle ripetizioni come se fossimo a scuola. Questo sicuramente anche contribuisce alla migliore lettura, al miglioramento della lettura. Ok, non perdiamo tempo e andiamo direttamente alla Tefilah. Allora, la Tefilah inizia. La Tefilah ha varie sezioni, varie fasi. Normalmente quello che si inizia al Tempio, come secondo l'usanza romana, in altre usanze si inizia, questa parte la si fa a casa, è le Berachot del mattino, le Birkot HaShachar. Chota Shachar, le benedizioni iniziali mattutine, e sono una serie di ringraziamenti, e vedremo esattamente di cosa si tratta perché leggeremo anche la traduzione, una serie di ringraziamenti per tutto ciò che spesso diamo per scontato nella vita e al risveglio normale ogni mattina, e poi una serie di richieste, quindi una mini preghiera, diciamo così, e le Berachot della Torah. Prima di studiare la Torah dobbiamo fare la Berachah, e l'ebreo ogni giorno deve studiare la Torah, quindi all'inizio della giornata si fanno le Berachot della Torah, si fa riferimento a un brano, ad alcuni brani della Torah, perché fatte le Berachot della Torah subito si studia, si recita qualcosa della Torah, e poi dopo un salmo si procede verso l'inizio del Sukkot de Zimrah, cioè i salmi di ringraziamento e di lode che ci portano verso il Yotzer, che è la Berachah, e le Berachot che precedono lo Shema. Noi iniziamo dalla Birkat HaShachar, le Birkot HaShachar, le Berachot della mattina. Allora, la prima Berachah che abbiamo qui inizia ringraziando HaKadosh Baruch Hu per l'anima che è, in qualche maniera torna all'interno del corpo della persona durante la notte. La notte, il sonno è considerato un momento in cui viene a meno la forza, l'energia vitale della persona. La tradizione dice che l'anima torna e si rigenera presso la propria fonte nelle sfere spirituali divine, e al risveglio HaKadosh Baruch Hu ci ridà la vita, ci ridà l'anima, e noi per questo ringraziamo. Allora guardiamo il testo. Il testo dice così: E per chi ci sta seguendo online, il testo che stiamo usando è il testo del rito romano che noi usiamo qui in questo Beta Knesset e nella maggior parte dei luoghi in cui si usa il testo di rito romano è diventato molto diffuso questo Siddur della edizione Morasha e quindi questo useremo per la nostra lezione. Allora, noi sentiamo questa lettura tutte le mattine che va così. Eloai, Neshama, Shenatata, Biteora. Questa è una frase. Cosa abbiamo detto? Guardiamo la traduzione. Dio mio, l'anima che tu hai infuso in me è pura. Quindi Elokai è come dire Elohim Sheli, è un'abbreviazione di Dio mio in un'unica parola. Neshama, tutti sappiamo che la Neshama è l'anima. Shenatata bi, che tu hai dato letteralmente, quindi hai infuso in me, Tehora, è pura. Significa che la Neshama di per sé viene da parte di HaKadosh Baruch Hu, non ha nessuna macchia, non c'è peccato originale. Inizia da capo. Ok? In origine, quando mi hai dato la Neshama, era pura. Poi la mia responsabilità cercare di tenere questa purezza dell'anima. E poi passa attraverso diverse fasi. Atta beratà, tu l'hai creata. Atta nefachta bi, tu l'hai soffiata in me, perché questo richiama il primo momento della creazione dell'uomo in cui è scritto vaipach, che il Signore soffiò nelle sue narici un'anima di vita. Vaipach be'apav nishmat chayim, quindi atta nefachta, tu la hai soffiata in me, e poi ve'atta meshammera bekirbi. Meshammera ci ricorda la parola shomer, che significa? Cos'è lo shomer? È il guardiano. Quindi meshammera, questo verbo è tu la conservi dentro di me. Tu la conservi dentro di me significa che sei tu, HaKadosh Baruch Hu, che gestisci fino a quando la Neshama rimane all'interno del corpo. E quindi subito dice, Ve'ata atid litela mimeni, e tu sei futuro, un giorno la toglierai da me. Tu la conservi e tu la toglierai. La vita e la morte sono date solamente in mano di HaKadosh Baruch Hu. E poi si fa riferimento alla resurrezione futura dei morti. Ve'ata atid la chazira bi le atid lavo, e tu un giorno me la toglierai, scusa, quello l'abbiamo già detto, tu me la renderai nella vita futura. Ok? Quindi, ata berata, ata nefachta bi, ve'ata meshamera bekirbi, ve'ata atid li tela mimeni, ve'ata atid la chazira bi le atid lavo. Questa è la struttura della frase. Poi arriva il ringraziamento. Kol zeman. Kol zeman, kol è tutto. Zeman, tempo. Quindi, kol zeman she haneshama bekirbi, finché la neshama, cioè tutto il tempo che la neshama è bekirbi, nel mio interno, all'interno di me, dentro di me, modeh ani lefanecha. Io rendo omaggio a te. Io ti ringrazio. Modeh viene da Todà, Hodà, ringraziamento. Ok? Tuttora che la Neshama, finché la Neshama è ancora dentro di me, io ringrazio sempre. Hashem Elokai Velokei Avotai, io ti ringrazio, Dio mio e Dio dei miei padri, e si conclude la Berachah dicendo, Baruch Ata Hashem, Hamachazir Neshamot Lifgarim Metim, che puoi rendere le anime ai corpi morti, che è inteso in due sensi. Primo, come dicevo prima, la morte minima, minore, diciamo, del sonno, e anche nel senso futuro della resurrezione. Quindi questa è la prima berachah. Ok? Ed è abbastanza chiara. E abbiamo visto la traduzione. Ora procediamo con la serie di berachot che hanno fonte nella Gemara, per ringraziare HaKadosh Baruch Hu, come dicevo prima, per tante cose base della vita. In origine l'usanza era che queste Berachot che sono riferite a cose specifiche, come vedremo, si facevano mentre si realizzavano quelle cose specifiche. Per esempio, quando si faceva la Berakah, che innalzi gli umili, Magbia Shefalim, come vedremo, allora quando è che si diceva questa Berakah? Quando la persona si alzava. Quando si diceva la Berakah, Malbish Arumim, che vesti gli ignudi, si diceva questa Berakah quando ci si vestiva. Ogni fase, ogni Berakah nel momento in cui arrivava quella fase. Oggi non è più questa l'usanza, si fanno tutte le Berakot insieme, dopo essersi lavati, vestiti e resi idonei per la tefila. Appunto, qui si usa Non farli si può al dire prima di tempio. essersi lavati? No, Domanda. Ok, quindi prima. sì, prima bisogna lavarsi la bocca, Sì, ok, eccetera. bene. Allora, la prima Berakah, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, la formula classica di ogni Berakah, Asher Natan La Sechvi Bina Leavchin Ben Yom Uven Laila. Asher Natan, che hai dato la Sechvi al gallo, Bina, il discernimento, la comprensione, Leavchin Ben Yom Uven Laila, per distinguere il giorno dalla notte. Tradizionalmente ci si svegliava dal canto del gallo, e quindi questa è una Berakah non tanto per l'esistenza del gallo, quanto proprio per il discernimento tra il giorno e la notte. Questa distinzione che HaKadosh Baruch Hu creò nella natura, il momento del riposo e il momento del risveglio, che è il momento del discernimento tra il giorno e la notte, e si parte già da questo ringraziamento. Poi si ringrazia per la propria condizione. E cioè, Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam, Shelo Asani Aved, che non mi hai fatto nascere schiavo. Oppure per una donna, Shifra, che è la versione femminile, schiava. Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam, She Asani Israel. Baruch Atah, ringraziamo Hashem, che mi hai fatto nascere Israel, ebreo. Alcune donne dicono Israelit, che è sempre la versione femminile. Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam Shelo Asani Isha, la terza formula di questo trittico, diciamo, di Berachot. Ringrazio HaKadosh Baruch Hu che non mi ha fatto nascere femmina, e le donne dicono She Asani Kirzono, che mi hai fatto nascere conforme alla tua volontà. Queste tre Berachot sono tutte volte all'idea di ringraziare per la carica che ci è stata data, e cioè l'incarico delle mitzvot. Chi rientra in queste tre Berakot, quindi che non è nato schiavo, è nato ebreo e non è nato donna, significa che ha più mitzvot. Ovviamente la donna dice che mi hai creato secondo la tua volontà. La donna ha meno obblighi di mitzvot rispetto all'uomo. Quest'ultima Berakah, che non mi hai fatto donna, ovviamente nell'epoca post-femminista, crea una grandissima difficoltà per tanti o per alcuni. Ed è un tema trattato e approfondito da Rav Di Segni in un articolo molto interessante che metterò il link nei commenti della lezione, così ognuno potrà leggere questo articolo che prescinde dal senso di questo corso. Proseguiamo con la prossima Berakah. Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam, Pokeach Ivrim. Benedetto sii tu, eccetera, che illumini i ciechi. Cioè è un riferimento all'apertura dei nostri occhi al risveglio, alla possibilità di rivedere il mondo intorno a noi e quindi che illumini i ciechi. La prossima Berakah, Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam, Matir Assurim, che liberi i prigionieri. Il senso semplice del risveglio non è inteso letteralmente i prigionieri dalla prigione, è inteso il corpo si libera al risveglio, la persona si alza e può smuovere tutte le proprie membra, liberarsi dal giaciglio, eccetera. Quindi è inteso in questo senso, sempre legato al sonno. Poi, Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam, Magbia Shefalim, che innalzi gli umili. Di nuovo, la persona è in posizione orizzontale, poi si alza alla posizione verticale, quindi da una posizione di umiltà, cioè di essere basso, perché Shafal letteralmente significa basso, ok? E quindi viene innalzato. Noi ringraziamo a Kadosh Baruch Hu di questa possibilità di innalzarci da una posizione, tra virgolette, di umiltà. Poi, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Hanoten Layaef Koach, che dai la forza a chi è stanco. Ayef o Yaef significa stanco e Hanoten, lui dà la forza, Koach, Koach è forza. Prossima beracha, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Malbish Arumim, cioè che vesti gli ignudi. Quindi la possibilità di vestirci. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Zokef Kefufim, che raddrizzi i curvi. Zokef è retto, Lizkof, mettere in posizione retta, Kefufim, i curvi, quindi di nuovo un riferimento all'innalzamento mattutino. E poi facciamo dei ringraziamenti più generali. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Roka Haaretz Alamaim, che distendi la terra sopra l'acqua. Cosa significa distendi la terra sopra l'acqua? Se facciamo sempre il richiamo alla descrizione della creazione in Bereshit, allora lì viene descritto che HaKadosh Baruch Hu all'inizio della creazione le acque coprivano tutta la terra. E HaKadosh Baruch Hu fa sì che le acque si limitino fino ad un certo punto e che quindi la terra possa emergere per dare la possibilità della vita sulla terra. E quindi noi facciamo questo ringraziamento, è come dire: ti trovi sulla terraferma, e tutto il nostro mondo praticamente è basato su questo fatto, e quindi lo diamo totalmente per scontato, e invece no, non dovresti darlo per scontato, perché sarebbe più naturale, tra virgolette, che le acque sommergano tutta la terra, e invece noi ringraziamo che HaKadosh Baruch Hu ha creato questa distinzione e ha posto questi limiti. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Hamechin Mitzadei Gaver. Poi la persona si mette a camminare, fa un passo, allora Hamechin, che sorreggi, non Mechin, che prepari, perché Hachana in ebraico significa anche preparazione, invece qui è un altro verbo che è come in altri contesti abbiamo come Yachin Uboa, sono delle colonne. Kan è un supporto, come a Kior Vekano, il lavabo è il supporto del lavabo. Quindi una cosa che viene sorretta, una cosa che sorregge. Scusate, qualcosa che sorregge. Quindi HaKadosh Baruch Hu sorregge che cosa? Mitzade, i passi. I passi. Tzade è un passo, fare un passo con i piedi, con le gambe. Sorregge i passi dell'uomo. Quindi la persona si rende conto che quando cammina e si tiene un equilibrio nella sua persona, anche questo non è da dare per scontato. Poi, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Ozer Yisrael Bi Gevurah, che cingi. Ozer qui è con la lettera Aleph, perché Ozer con la lettera Ain sarebbe legato ad aiuto, supporto, Ezra Rishonah, prima assistenza, in ebraico si dice, ma qui non parliamo di questo, qui abbiamo la Aleph, Ozer significa cingere, ok? Ezor può anche essere un tipo di cinta. Quindi Ozer Israel Bigvura, cingere Israel di forza, letteralmente, Gevura è forza, qui lo traduce con vigore morale, quindi si intende anche forza morale, ci dà la forza per, forza morale significa la forza per fare le giuste scelte morali, quindi ci dà il libero arbitrio, ma ci dà la forza per fare la giusta scelta se dovessimo impegnarci appunto in questo senso. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Oter Israel Betifara. Oter viene dal nome Atara, Atara è una corona, quindi che coroni Israel di onore. Questo tradizionalmente è considerato un riferimento ai Tefilin. Tefilin vengono chiamati, il tefilin con il quale ci incoroniamo è considerata una bellezza. Tiferet, Pe'er, quindi ti farà onore e bellezza. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, She'asali Kol Tzerachai. Qui un ringraziamento generico e generale, She'asali, che mi hai procurato, Kol Tzerachai, tutte le mie esigenze, tutto ciò di cui ho bisogno. Tzorech è un bisogno, un'esigenza. Kol Tzerachai, tutte le mie esigenze. Poi, a questo punto, si apre una berachà che non conclude fino alla fine del brano, in questo caso della nostra pagina 8. Sembra che concluda alla fine della riga Me'afapai, ma in realtà questa berachà apre qui Baruch Ata Hashem e conclude... no, neanche la fine della pagina. Dove sta? Ecco, scusate, a pagina 10, Gomel Chasadim Tovim Lamo Israel. Questa berachà dura fino a questo punto, ok? Quindi, quando si dice Utenumame Afapai, che è la fine di questa frase prossima nel libro, non si dice Amen, perché non è la conclusione della berachà. La berachà conclude qui, Gomel Chasadim Tovim Lamo Israel. E anche nel modo in cui si canta nel rito romano, quando il Chazan dice Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, e tutto il pubblico dice utnumame afapai, non dice amen, dice utnumame afapai, perché? Perché non è la conclusione della Berachà. La Berachà conclude a qui la prossima pagina, come vedremo. Perché struttura diversamente? Non c'è il motivo. Sì, allora, in generale ci sono diverse maniere di strutturare Berachot. Alcune Berachot sono semplici, nel senso una sola riga, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Pokeach Ivrim, fine della Berachà. Altre berachot invece hanno una petichà e una chatimà, e cioè un'apertura e una conclusione e un corpo in mezzo, come tutte le berachot degli Yotzer. Tutte le berachot prima e dopo lo Shema seguono questa struttura. Ok? E questo è un altro esempio che abbiamo qui all'inizio, verso l'inizio della tefilà. L'Amidà stessa è strutturata così. Anche l'Amidà è strutturata così, assolutamente. Sì, più breve, però sì. Però è strano. Perché? Perché inizia con Baruch Esattamente. e poi finisce con Baruch Atashem. Proprio questo che si intende quando si dice che la Berachà ha un'apertura e una conclusione, che apre con Baruch Atashem e riconclude con Baruch Atashem. È proprio questo, è proprio questa la struttura della Berachà che apre e conclude con la formula della Berachà. Quindi non c'è da per questo, no, scusatemi, per questo non si ripete dopo Elokeinu Melech Haolam, perché si è già detto all'inizio. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, e conclude con una formula abbreviata, Baruch Ata Hashem Gomel Chasadim Tovim. Quindi a Israele c'è Amen. Lì si dice Amen. Ok, torniamo indietro, non voglio fare confusione, torniamo a vedere il testo. Quindi è l'ultima delle berachot brevi, ma in realtà, come abbiamo visto, è una bracha lunga. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Hamaavir Chevlei Shena Me'enai, Maavir significa che togli. Le ha'avir significa togliere, far passare oltre, togliere via. Chevlei shena, gli stimoli del sonno, quando una persona si sveglia, ha gli stimoli del sonno, gli vorrebbe rimanere a letto, no? Quindi toglie gli stimoli del sonno, me e nai, dai miei occhi, utnuma, e la sonnolenza, me afapai, dalle mie palpebre. E poi non si conclude la berachà, ma si iniziano a fare delle richieste. Cioè abbiamo fatto una serie di ringraziamenti e ora facciamo quello che si può chiamare molto letteralmente tefilà, cioè richiesta. Richiesta di cosa? Vediamo. Yehi razon mi lefanecha. Formula classica per aprire una richiesta, che è sia la tua volontà. Quello che io adesso sono per chiedere che questo sia la tua volontà, cioè che questo possa essere effettivamente voluto da te a Kadosh Baruch Hu e quindi realizzato per me. Cosa? Hashem Elokai Velokei Avotai, quindi ci riferiamo all'Eterno nostro Dio, Dio dei miei padri. Quale sia la tua volontà? Shetargileni lidvar mitzvah. Noi chiediamo aiuto. Abituarmi alle opere degne di merito. Aiutami a fare le mitzvot. Cioè noi vorremmo fare le mitzvot, a volte ci sentiamo in difficoltà per diversi motivi o difficoltà specifiche nel fare la volontà di HaKadosh Baruch Hu, chiediamo suo aiuto in qualche maniera a facilitare per noi questo percorso. Quindi da una parte c'è Targileni, che io possa abituarmi appunto a fare le mitzvot, e al contrario Ve'al Targileni, e non permettere che io prenda l'abitudine, quindi non farmi abituare al Targileni, al e come lo, non Lidvar Avera Ve'avon, verso la trasgressione e il peccato. Avera è trasgredire, e Avon è molto conosciuta a Roma, in Gavon, no? Quindi il peccato. Ve'ashlet bi yetzer tov, che predomini, shelita è dominio, quindi hashlet, fai sì che predomini in me, bi yetzer tov, l'impulso, l'istinto verso il bene. Ve'al tashlet bi yetzer hara, di nuovo chiediamo anche il contrario, e fai che non venga dominato io dallo yetzer hara, cioè dall'inclinazione verso il male. Inoltre chiediamo ve'chazekeni be mitzvotecha, dammi la forza, chazekeni, chazak significa forte, no? Quindi dammi la possibilità di essere fermamente legato, fortemente legato, ben mitzvotecha, alle tue mitzvot, ai tuoi precetti, veten chelki betoratecha, e farmi, qui traduce coinvolgere nella tua Torah, chelki significa letteralmente la mia parte, perché questo richiama un'idea che ogni ebreo ha almeno una parte nella Torah, in altre parole, chelek sheli, chelki, la mia parte, perché in altre parole significa nessun ebreo può dire non mi vedo nella Torah, non riesco a capirla, a studiarla, c'è qualcosa nella Torah che sicuramente è tuo, nel senso con il quale tu ti puoi sicuramente legare, basta cercare e approfondire e troverai la parte nella Torah che più ti si addice, diciamo così. Ovviamente tutta la Torah appartiene a tutti gli ebrei, ma i maestri dicono nel Talmud ognuno deve studiare ciò che è più portato a studiare, laddove ha il suo desiderio, perché la Torah è molto, molto vasta, non tutti sono portati a studiare un aspetto piuttosto che un altro, ma tutti sono portati a studiare qualcosa della Torah. Questo è interessante riguardo per esempio al figlio Rasha dell'Agadà, no? Mm-hmm. Ho sentito una delle Rasha che diceva sì, che il problema non è che il figlio Rasha dice voi, perché lui non si sente, non partecipa, il problema è che non gli è stato insegnato. Quindi questo viene bello. Sì, il problema è che se non viene insegnato allora ce l'avrebbe, ma esatto, non gli è stato insegnato a sufficienza. Bene, Hazak. E poi chiediamo di nuovo, sembra una richiesta ripetuta ma non è, ora vediamo. Ve'al tevieni lidechet, non farmi portare alle condizioni di peccare. Cioè prima abbiamo chiesto non abituarmi alla, non fare che io prenda l'abitudine verso la trasgressione. Adesso stiamo dicendo un'altra cosa, non creare le condizioni che faciliterebbero il peccato. Alte vieni, non mettermi in quelle condizioni, noi chiediamo, e quindi è naturale la seguente parola, velloli dei nissayon, e neanche non mettermi davanti ad una prova, nissayon. Noi sappiamo che veniamo posti davanti alle prove, ma non dobbiamo cercarle. Se HaKadosh Baruch Hu ce le mette davanti, allora le dobbiamo e le possiamo superare, ma non siamo tenuti ad andare a cercare la prova, e addirittura, come vediamo qui, chiediamo ad HaKadosh Baruch Hu di cercare, di non metterci alla prova. Buona giornata. Veloli dei bisayon, quindi nisayon è la prova, e bisayon è bisayon letteralmente è la vergogna, quindi l'infamia, dice qui nella traduzione, non portarci a condizioni di essere visti male da parte di altre persone. E poi vechof et yitzri. Chof et yitzri significa domina la mia inclinazione, yitzri, mio yetzer, tutti conosciamo la parola yetzer, yetzer tov, yetzer ara, le hishtabed lach, che possa assoggettarsi a te. Il hishtabed, se voi guardate bene la parola le hishtabed, trovate dentro la parola eved, le ultime tre lettere, schiavo, quindi significa assoggettarsi, fai sì che io possa avere la forza di far assoggettare il mio Yetzer Hara alla tua volontà, a Kadosh Baruch Hu. E poi Vehachna Orpi Lashuv Elecha. Hachna, sottometti, umilia la mia caparbietà. La parola Orpi viene dalla parola Oref, che è molto famosa nel contesto Am Keshe Oref, popolo di dura cervice. Oref è la cervice. Hachna Orpi, umilia, sottometti la mia cervice, per così dire, quindi la mia caparbietà, testa dura, Lashuv Elecha, che possa io ritornare a te. Lashuv, come Teshuvah, ritorno. Poi, Vechadesh Kiliotai Lishmor Pikudecha, rinnova i miei sensi perché possano osservare i tuoi comandi. Un molet levavi, mol dalla parola milà, circoncidi il mio cuore. Noi sappiamo che nella Torah è scritta la mitzvah di milà, nel senso fisico e materiale, nel berit, nel patto che facciamo, ma è anche scritto un mal Hashem Elokecha et levavecha, il Signore circonciderà il tuo cuore. Quindi c'è anche il prepuzio del cuore, per così dire, cioè quello che divide, che copre il nostro sentimento del cuore nei confronti di Akadosh Baruch Hu, e noi chiediamo aiuto a togliere questa ostruzione, se vogliamo. Et levavi, quindi il mio cuore, et levav zari, il cuore del mio seme, letteralmente della mia prole, le ahava u le ira e cemecha, perché io possa ahava, essere portato ad amare, e ira, essere portato a timore, et shemecha, del tuo nome. E quindi ve la sot, di mettere in atto, di fare, atov, ciò che è bene, ciò che è buono, gradito, ve ayashar, e retto, beinecha, ai tuoi occhi. Quindi se io sono portato ad un sentimento di amore e timore, sono facilitato per la asot, per mettere in atto. Giusto? Ciò che è retto nei tuoi occhi. E poi, vekorveni lechol mashe ahavta, avvicinandomi quindi a tutto ciò che tu, Akadosh Baruch Hu, ami, verrà hakeni, e allontanandomi, mikol, da tutto ciò, ma she saneta, che tu invece odi. Se io amo te e ho timore di te, il risultato dell'amore è che amo quello che tu ami, e il risultato del timore è che mi astengo da quello che tu odi, come in qualsiasi rapporto. E poi, vekayem alai, e realizza su di me, ve alzari, sulla mia prole, ve alzera zari, e sulla prole della mia prole, mikra shekatu, quanto è scritto nei versetti successivi che citeremo. Primo, quello che abbiamo citato prima, umma l'Hashem Elokecha, il Signore circonciderà, et levavecha, il tuo cuore, ve et levav zarecha, e il cuore della tua prole, le ahava et Hashem Elokecha, perché tu possa amare il Signore tuo Dio, bechol levavcha, con tutto il tuo cuore, uvchol nafshecha, con tutta la tua anima, le man chayecha, perché tu possa procurarti la vera vita, chayecha, la tua vera vita vissuta spiritualmente e con significato e valori. Poi un altro versetto citiamo, vani, ed io, per ciò che mi riguarda, dice Akadosh Baruch Hu, zot beriti itam, io prometto la mia promessa nei loro confronti, otam, con loro, Amar Hashem, disse il Signore, ruchi asher alecha, la mia volontà, il mio spirito, che ti ho rivelato al profeta, udvarai asher samti beficha, e le mie parole che ti ho fatto conoscere, che sono le parole della Torah, lo yamushu mipicha, non saranno mai dimenticati dalla tua bocca, quindi da te, umipizaracha, e dalla bocca della tua prole, umipizera zaracha, e dalla bocca della prole della tua prole. Quindi Kadosh Baruch Hu promette che se noi ci teniamo alla Torah, questa avrà una continuità eterna, meata, da ora, ve'ad olam, in eterno. Amar Hashem me'ata v'olam, disse il Signore in eterno. E continuiamo a citare alcuni versetti sempre all'interno di questa Berachah, pagina 10. Venodà bagoyim, la loro zaram, la loro prole sarà riconosciuta, distinta tra le genti. Vezezaehem betocha yamim, e i loro discendenti fra tutte le nazioni, kol roehem yakirum, chiunque li vedrà li riconoscerà come kiem zera berach Hashem, che sono una prole benedetta dall'Eterno. Quando l'ebreo si tiene al suo ebraismo, viene visto dal mondo, da tutte le nazioni, come una benedizione. Lo yigeul arik, non faticheranno in vano, ve lo yeledula beala, e non faranno parti immaturi, kisera beruche Hashem hemma, poiché saranno una prole benedetta dall'Eterno, vezezaehem itam, e insieme ai loro discendenti. Vehaya, e sarà, quindi un altro versetto di promessa buona, terem ikrau vani ene, terem, prima ancora ikrau, che mi invochino, che chiamano, l'ikro vuol chiamare, vani ene, e io già risponderò. Quindi chi merita, prima ancora che invoca la richiesta che ha da fare, HaKadosh Baruch Hu già la esaudisce. Od hem medaberim, mentre parleranno, vani eshma, li avrò già ascoltati. Eshma come Shema, ascolto. Chi etzok maim al tzame, come faccio scendere la pioggia sopra un campo assetato, tzame chi ha sete, venoslim al yabasha, e scorrere i torrenti sulla terra inaridita, etzok ruchi al zarecha, così effonderò il mio spirito sulla tua prole, ubirchati al tzezaecha, e la mia benedizione sui tuoi discendenti. Bezamchu beven chasir, cresceranno come l'erba, karavim al yivle maim, come i salici presso i ruscelli. Zei omar la shemani, uno dichiarerà di adorare l'Eterno, e zei krab shem Yaakov, l'altro proclamerà di appartenere alla famiglia di Yaakov, cioè saranno fieri di quello che sono, e zei ichtov la yado la shem, un terzo si firmerà servo dell'Eterno. Chi sono io? Servo dell'Eterno. Ubeshem Israel Yechane, e prenderà il nome di Israele. Ognuno sarà fiero di tenere, di trasportare, di portare il nome Israele. Vayehi kachol zarecha, la tua prole sarà come la sabbia, quindi numerevole. Vezezaem echa kimeotav, e i tuoi discendenti come i suoi granelli della sabbia. Lo ikaret v'lo ishamet shemo milefanai, mai morirà o finirà il suo nome dinanzi a me, il nome di Hashem dinanzi a... Oh no, il nome della prole dinanzi ad Hashem. Vetielli le misgav, e noi chiediamo ad HaKadosh Baruch Hu in conclusione, sì per me protezione, un mivtach, difesa, un migdalos, fortezza, uvet mezudot, edificio fortificato, le hoshieni, per salvarmi, ule azil nafshi mishachat, liberarmi dalla fossa e da ogni angustia, o mikol tzara. Inteso sia a livello letterale, fisico, materiale, che anche a livello spirituale e morale. Uteneni hayom, fa sì che io possa trovare oggi, uvecholyom, e in qualsiasi altro giorno, in qualsiasi altro momento, lechen, grazia, ulerachamim, misericordia, beeinecha, i tuoi occhi, uveinei kol roai, lechen ulechesed ulerachamim, grazia, misericordia e clemenza, ai tuoi occhi, agli occhi di chiunque altro mi veda, vegomleni chassadim tovime, usa verso di me un'amorevole misericordia. E si conclude, Baruch Ata Hashem, Gomel Chassadim Tovim Leamo Yisrael, che usi un'amorevole misericordia verso il tuo popolo Israel. Ecco, concludiamo qua, perché non possiamo allungare troppo. Quindi abbiamo fatto la prima parte delle Zemirot, abbiamo semplicemente letto e tradotto, e per aiutare la pronuncia è bene vedere anche le virgole e i punti nel testo, perché ci aiutano a capire dove nel canto bisogna fermarsi e poi riprendere il canto, perché spesso quando non si capisce il senso si fa un errore anche in questo senso, che si canta come se finisse il versetto più avanti, in realtà è già finito prima e quindi potrebbe cambiare il significato e la struttura. E abbiamo semplicemente letto insieme la traduzione per contribuire a una migliore tefilà, e procederemo la prossima volta con la continuazione. Buona giornata. Esatto. Dai. Sì.